siamo padre, gli occhi di cinquanta, mi vedo con i loro giusti, vedo con i loro giusti, noi siamo padre, negli occhi di cinquanta, formare un fastidiosa, nel mente non si accetta, formare un fastidiosa, la lama ci ferisce. Noi siamo padre, gli occhi di cinquanta, vengo con i loro giusti,